le organizzazioni sindacali che non si chiamano CGIL e CISL e UIL, che complessivamente rappresentano il 43% dei dipendenti comunali, con dati relativi alle votazioni alle RSU, quindi inoppugnabili, e fra l'altro l'SGB è il secondo sindacato al Comune di Bologna dopo la CGIL, non hanno né il diritto di poter fare le assemblee retribuite in orario di lavoro, né il diritto di partecipare a molte delle contrattazioni, dei confronti sindacali e anche di spessore, ad esempio gli ultimi confronti sulla gestione della pandemia, che nel Comune di Bologna, insomma, è il Comune di Bologna nei nidi, per esempio, nelle materie, nel caos totale, viene a noi negata. Questa cosa deriva dal fatto che il sindaco Merola, già all'inizio del suo mandato, ha deciso di attaccarci violentemente. Forse vi ricorderete, fece una campagna stampa dando dei dati falsi alla stampa, cioè che era il dato di 158 giorni di assemblea in un anno che i dipendenti comunali facevano, che poi si sono rivelate 158 ore divise fra 5.000 dipendenti e articolate fra i vari diversi settori del comune, quindi una percentuale più bassa di quella usufruita in tutti gli altri enti delle stesse medesime dimensioni del nostro paese, e con quel dato falso fece questa campagna violenta contro il fannullone, accusando in particolar modo noi che le assemblee dei lavoratori le facciamo sempre, chiaramente per una questione di democrazia, accusando particolarmente noi di aver fatto questo scempio. E quindi ci cancellò un accordo sottoscritto nero su bianco con i sindaci precedenti. L'ultimo fu Cofferati, che firmò con noi questo accordo sulle relazioni sindacali, ma anche quelli precedenti già ne avevano firmati altri e comunque l'applicavano. E da lì è partito questo attacco violento, che è continuato sempre, fino ad arrivare appunto all'interpretazione cavillosa di articoli di contratto che l'hanno portato ad escluderci anche da alcune trattative. Fra l'altro hanno fatto un tentativo a un certo punto, tramite la CGIL in particolare, di darci comunque la possibilità di avere un minimo di diritti sindacali attraverso le RSU, ma poi il cambio anche di segreteria in CGIL e suo affiancarsi completamente sulla politica di Merola ha fatto sì che invece si sia rivelato un grande bluff. Quindi da anni noi siamo in queste condizioni, il 43% dei lavoratori non ha questi diritti sindacali. Per questo voi avete indetto un referendum? Sì, perché noi abbiamo posto questo tema sempre al centro della relazione anche con i partiti politici che siedono in consiglio comunale o che governano il comune. E abbiamo avuto le giunte Merola, siamo sempre scontrati con un muro. Addirittura noi adesso andiamo a referendum, ma ci andiamo dopo un diniego fatto nel mese di luglio, sempre da parte di questa giunta, alla possibilità di utilizzare quel minimo di strumentazione interna che invece concedono agli altri sindacati, quindi abbiamo dovuto fare tutto in casa. Cioè hanno provato anche a vietarci i referendum. Cioè, abbiamo avuto queste relazioni e per esempio abbiamo incontrato anche i due candidati alle primarie, no, del PD, e tutti e due avevano detto, ma l'abbiamo scritto anche pubblicamente, che questa situazione si sarebbe superata. Ad oggi non è così, anzi sta peggiorando, e quindi noi nel mese di agosto abbiamo lavorato alla realizzazione di quello che sarà un vero e proprio referendum fra i dipendenti comunali. E 5.000 dipendenti potranno votare con un sì o un no a un quesito molto, molto chiaro sulla democrazia sindacale interna, e lo potranno fare fino al 1 ottobre, cioè il 1 ottobre. Il 2 ottobre ci sarà lo scrutinio, tra l'altro, a cui chiunque può assistere. Potranno votare sia con metodo cartaceo, con i nostri delegati, i lavoratori, i militanti iscritti, simpatizzanti che gestiranno le urne, sia con un voto online con chiaramente il carattere della riservatezza. Quindi insomma il giorno prima delle elezioni scopriremo cosa pensano i lavoratori e le lavoratrici del comune. Certamente, spero, mi auguro che scopriremo anche quello che pensano tutti i capolista e i candidati a sindaco che sono attualmente in lista per il comune di Bologna. Perché? Perché noi abbiamo inviato a tutti questi politici la richiesta di esprimere anche il loro voto sul medesimo quesito, ma di farlo in forma pubblica. Gli chiederemo conto della loro scelta fino all'ultimo giorno e renderemo noto chi ha votato, chi non ha votato e cosa uno ha votato. Mi auguro che lo facciano tutti al di là del loro pensiero, cioè che ci dicano se pensano che questa situazione debba continuare, questa situazione che è incredibile debba terminare. Se non ci fosse stata questa situazione di negazione della democrazia, molto probabilmente nel comune Comune di Bologna la gestione della pandemia nelle scuole e nei nidi sarebbe stata molto ma molto meno caotica, perché noi avevamo una serie di proposte che abbiamo provato a fare, ma hanno tirato su un muro, perché tanto con noi, secondo le loro regole, non hanno nessun obbligo di interloquire.